non ti rompo le scarpe. Sì, io sono così, beh, come tanti, cioè, perché oramai mi conoscono, quindi hanno anche un po' di confidenza, Fabetta nel Sassareggio, puro, no? Non c'è problema. Sì, perché bisogna mantenere un certo rapporto con il cliente, c'è poco da fare. Ci sono quelli pedanti proprio che lui, quelli bisogna attaccare al muro. E poi ci sono quelli che non è per fare. Cosa c'è, amore mio? Aspetta un attimo già, che sta tossendo il gatto. Mi ha dato. Sta tossendo? Si deve vomitare allora. Sicuramente. Adesso gli è passato. Quando c'era il pelo dentro lo fa quel lavoro lì, mi ha detto. Tossisce la cosa, provoca il vomito. Capo, l'ha fatta succia. Niente, adesso si fa così buono. Ti lo fa, grida pure, fa... Chiaramente te lo voglio bene io. Quindi ti stavo dicendo già. Purtroppo c'è gente che invece fa carità, le fa la faccia brutta, cioè sono sempre incazzate. Secondo me non è, cioè non ti acclamano poi, cioè ti pigliano per come sei. Beh. No, io la cosa d'accordo con tutti i clienti. Bene, qualcuno che mi ha fatto mattana, gli ho risposto perché era giusto così. Poi facciano quello che vogliono. Però la maggior parte dei clienti di me ne parla bene. Già, no, comunque già. Già c'è quello, c'è un pochettino, c'è molto. Però c'è anche quello molto in gamba, che non ti rompo le palle. Ci sono quelli che ti stavano bene, ti davano la mancia, che ti trattavano proprio nel mezzo dei muri. E adesso 10 casse da qua se le sognano con le offerte, adesso al massimo 5 ne possono prendere. Chiappa. Allora, stavo combinando di tutti i colori, cazzo. Per quello molti si rivolgono a noi perché no, non ne arriga né a piani altri. Le bombole? Bombole, anche una bombola da 10 con una bombola, non te ne arriga né. Solo in ascenso. Allora, no, diventate anche signore, se no fino al terzo piano voi farete terapia. Ah, pagato. Grazie, cioè soprattutto tu mandi una madonna anziana un giorno, a noi ce la raccontano queste cose, ma non capiamo tutto al volo perché è così oramai. L'andare dito di Valagioso di pigliarsi la bombola, una femmina anziana di 90 anni. A parte che se non so se piazzare, devo salire loro, se la sua è piazzare la bomba, se io pago per il suo servizio, se no vado me la prendo io. Cioè, vado non hai 90 anni dici di andare a prendere la bomba, che foto vuoi prendere a calcio in culo? La telefonata principale. Proprio loro, non sono i ragazzi, proprio loro, i titolari in persona che fate i cose. Ma Pistoluzzi no, Pistoluzzi deve portare su. Lascia perdere, lascia figlio, ho già, e non è tutta la regione. No, a me me la porta fino a casa, nella casa è tutto. Eia, no, in quel fatto là che va l'ascensore, prova se senza ascensore a vedere. Ah, così. Grazie. Logicamente cioè, il servizio quando vuole fatto tutto, cioè con l'ascensore e con senza ascensore, no, non puntata, cioè solo visto con l'ascensore e poi da due dici per ogni cosa, ma a me me l'hanno detto, non so se è vero, fa un piano in più che va bene e scatta la tariffa. Grazie. Aspetta un attimo già. Hai detto che sono rispondendo. Aspetta, te lo faccio. Aspetta un attimo. Come qua? A pagare. Pagava. Ha una signora che fa dei ghigli, proprio gli scrive a testa. gli ha tempio, a quattro piani a piedi, ha detto che non ne arregava più. E così lavorano. Là, galle. E io? Chi siete? Qui sono. Poi appa. E via. Questa è la realtà. Purtroppo non tutti sono volontariosi. Bisogna lavorare, bisogna. Ora nessuno si sta pagando. Bisogna lavorare, non è così, no. Se ve lo dicevo, voi non ci credevate. Cos'è che non ci credevo? Bisogna travagliare. Io ho sempre lavorato. A voi. Un tanto. Fai una battuta. Gaffa, a proposito di merda. Gaffa, gaffa. Gaffa, Roger. Cazzo, ma non vuoi avuto io, ecco, cazzo. Ah, ascolta, ho letto quel messaggio che mi mandato. L'ho visto da voi, l'ho visto poco fa. Non l'ho sentito il telefono squillando, deve essere che ero impegnato perché stavo facendo un lavoro. E quindi, niente, dopo l'architettura era continuato. Ragazza! Vai, ma è vero una cosa, che fai un DR tu? Si è comprato la roba professionale. Cosa? Si è comprato la roba professionale, è vero? Io? Ya. Yeah. No, io no. Sì, dai che già ce l'hai, a dare una scurtulata. Non ho niente io. Me l'ho ordinato pure io ieri. E quello è professionale. Quando attacco fa radio drosio. Paga. E te ne vai. Cazzo, stavo preso perché mi hanno detto che era buono, c'è il valvolone. Ah, hai fatto bene. Già, passino brincato in aria. Quanto? Assina puta, dato non è pago, un 500 euro. Cappa. Ma ho detto che è il migliore, sai com'è? Sempre così dicono per bene. Uno deve far convincere, deve guardare le caratteristiche. Paga, fa. Ho preso pure uno di quegli apparati grigi, belli. E di chi si chiama, dove le metti 60. Sì, l'ho comprato, va per 500 euro. Ma uno così? E mi hanno detto che ero migliore. Perché? Ma io ho sentito così vagamente, allora l'ho fatto pure io. E c'ha, diciamo, tanti anni, però va bene con la pericchia. E non si sarà prima. Niente. I componenti sono quelli del Philips, degli altri apparati, sono uguali. Chiappa. E sai come mi è saltato in testa, se mi tocca la radio con l'eco non va più bene, quindi mi è saltato in testa di comprarmelo. Poi mi sono sceso giù a produttore, sono andato a trovare mia sorella e poi sono andato a mettere la benda. Ho sentito che è aumentato, 1,44. Cosa? Benzina. E la miseria. E dove? No, non è per televisore, che da oggi è aumentato a 1,44. E il coso del cassetto della Mondezza si è detto là. Hanno diversi orari. Chiaro, andai in ora a mare, andiamo. Ti stai dicendo? Va bene, alcuni punti costa di meno. Sì, è vero. Costa di meno, sì. Andai in ghise. Anche le bombole devono aumentare. Non sto dicendo io. Ah. Ma è un bel puro. Noi le facciamo il minimo, le facciamo, però per guadagnarci il minimo deve essere più di più 42 euro. Tutto già. Invece noi la diamo di meno, cioè stiamo valutando. Voi a per carità di Dio, cioè, un biglietto fuggirate. Un casino, queste cose qui portano la gente a farsi l'impianto a gas, andare col muvoloni coloniali. Buono di sicuro. Sai Dio, e quindi anche tu è così? Così ci vorrebbe una bella girata, andare a mangiarsi qualche cosa. Ma è poco. Oh, buon Giuseppe, buonasera. Buonasera e ben sentiti. Hai sentito anche a te Giuseppe? Com'è? Giuseppe. Yeah. E beh, anche tu. Giuseppe. Buonasera. Buonasera Lucchetto, buonasera a tutti. Ciao a tutti. Buonasera, sono un piombo, buonasera. Buonasera Luca. Buonasera Lecco. Ciao Giuseppe. Ciao Antonio, ciao Gianni. Ciao. Siamo tutti qui. Gianni, dove mi tocchi? Che posso dire? Ah, non mi tossi. No. Sono addormentato. Stanchino perché ho girato molto. Poi c'è mamma. No, grazie signora. Non mi Perché se c'è druide Sassare se lo traduce a Sassare. Guardi, una volta lo stesso. Io me lo ricorderò finché campo va. Guardo che sei un nostro amico, no? Ma tu passa a chiamarmi stasera. Ma ti parlo di qualche anno fa, non adesso. Ma poi vabbè, è il mio collega di lavoro, anzi, lavoro come panificio. Devo andare a prendersi, non so, roba a vestire. Ma tu vabbè, passo, ti chiamo verso le 4, 4 e mezza. Chiuso la porta, e mi apre la madre. E gli faccio, c'è Sandro signora? Aspetta un attimino, va dentro. Ha detto che hai dormito. Ha detto che hai dormito. Sta ma colpo di furbizia che se gliel'avesse detto lui. Infatti. Ma parola. Ma ti ha detto dormito. Cioè, mi ha detto che hai dormito. E dormito quanti fate di lì? Ma tu usci, ma ha detto che hai dormito. Quanti Giuseppe? Stavo dicendo, capparetti che vanno. E allora Giuseppe, allora cosa mi racconti? Stavo per chiamarti stasera, poi invece doveva venire gente, aspetta, e non vedo tutto nessuno. Cappa, allora male faceste a non chiamare, Mario. Bah, tante volte te ne penti di essere di parola. Io, guarda, con la verità, ti ho detto già l'altro giorno, no? Ti ricordi quel famoso discorso che abbiamo approvato? La gente che non è di parola è la prima che parto, perché chi non ha parola non c'ha niente. Infatti. Ma telefonato lui mi ha detto guarda che vengo, fatti trovare a casa, aspetta, non veniva, l'ho richiamato, sì già vengo, ho avuto un problema, ma sto arrivando, non vedo giunto nessuno. Vabbè, quello è un classico della gente che parola non ne ha, comunque, non è un problema, magari se domani ti telefono aspettalo. Sì. Dico, se lo si qui fra 10 minuti, giocandemi, perché io non devo stare segregato in casa per lui. È positivo. Avanti, bombolino. Per pa. Vabbè, Pierino la peste. Mia Pierino, l'ho sentito. Per pa non lo sento in sottofondo, deve essere con qualche portatile. Sì, è col portatile. Sta dicendo messa? Detto Masulas, Popul de Masulas. Io la sento molto basso. positivo e carta di rosmetro, adesso riesco a prenderti in pieno e buonasera per Paolo. Buonasera a todos. Ciao, ciao Pierpaolo, hai sentito? Avanti Luca. Via, ciao Pierpaolo, hai sentito? Ma ripeto, io vi ascolto ragazzi, devo fare una cosettina al computer e mi servo chiudere le mani, cambio e passo, vai, ripeti tu Giuseppe, lascio a te il mic. Ascolta, ma ascolta senza essere dormito per un minuto. E allora, se dormite, sono dormito un casino. Non stiamo uscendo. Chiuse. Sto anche uscendo, no? Bisogna vedere che alimentatore sta usando, già qua sta alimentando, molte volte li alimenta pure. E sono un massimo di voltaggio, è un casino. Vai Antonio, riprendi, io sono già 25 ampere dalla ZG, ho gli strumenti e tutto. Vai Antonio, riprendi. Cappa. Vinci il video. Vai Giuseppe, come fa? Vedi un pochino, sto uscendo adesso. Ma c'è, vabbè, c'è di più alternata comunque in cuffia, ragione Gianni, Sì, ma non li ho fatto bene, adesso non sono alimentato dagli alimentatori. Però l'hai già alimentato. Vedi un pochino adesso se l'alternata si sente ancora. Adesso no, ascolti l'attaccato, ecco perché. Meglio passo. Passo il pulito, liscio. Ma c'erano tu dei video? Ma Gianni ce l'avevamo visto. Cappato, li ho visti. Erano bitti. Le? Cappa, un bel di niente, Già lo so. Ma certo, è mitico. Dov'è che si può fare un karaoke? Non lo so. Sabato notte voglio portare il karaoke a cantare. E alle robotte. Qualche posto dove si può cantare? Non lo so. Si prima canta uno barobi, noi resistiamo tutti. Carità di Dio no, Io no. Perché? No. Per cui? Già va. Dai, già ci giriamo dall'altra parte quando stai cantando. Già va. Potete un fermentino alla cantina sociale del Sorso, se vede. Vai, grazie per farlo cantare, ma sai che bello un po'. Si fa come ha fatto a Capodanno. Dai. Vai già. Ho detto. Se dite qualcosa da bene, Antonio, già canta come ha fatto a Capodanno. Tu non c'eri, va? Sì. Stavo fatto una cantata, oiui. Però, come anch'io. E allora? No, non c'era, siamo per un'anima già questa, perché mi ho dormito. No, abbiamo fatto festa così, abbiamo cantato tutta la notte, io, Antonio, poi c'era quell'altro Antonio, poi chi c'era Antonio? Aiuta. Para. E basta. Vabbè, ma chi due era il gotto di pippa? Ne ha risato. Io no. Io quasi tranquillo, dai, sbronzino, dai, un po' brillo. Bene, adesso per quello le mette, mi chiedo su guia. Questo sono io. Senti. Antonio, Falchetto, tutti dici che hai cantato. Poi va via l'embriaghera, che manca a me di dia. Via. E tu hai cantato lo stesso. Un po' divertiti, no? Ma già cantava Rurù dopo col pettardo, pupro. Lascia bianco. Io ora non tengo niente. male nel mio room se senti Giuseppe in cuffia. Attenzione, giorni dopo un room si ascolti la radio vera, cambia. Tecnico e laboratorio non ne abbiamo più. Sono contento per loro. il microfono te lo mandano, però te lo mandano con la pacca che ha, magari se hai la pacca 4 te lo mandano a 4, io avevo richiesto a 5, però non ne aveva. Ma 5 non ne aveva, e vabbè, ma già si può fare. Però, e allora mi sa che glielo prendo uno. Ecco, ci vuole farlo. Ma ci vuole sempre la pacca a 5. E la pacca a 5 ce la trovi anche qua. Ah, si trova? Certamente. L'avessi saputo allora gliel'avrei confermato già la sera stessa, perché adesso siamo in mezzo alle feste, quindi se ne parlerà anno nuovo. Ma che cosa? No, il signore trovano. Oh, allora vedo un po', se è aperto domani la chiamo direttamente domani. Capo, io ma quello già si trova a fare, voi, se già ci sono le signore ci scordiamo qua pure, io l'ho preso qua. Cappa. No, come pare che faccio la cappa 5 punte di più. Positivo, perché questo qua che sto usando adesso l'avrei voluto lasciare fisso qua nel 48, nel 48. Però per l'altro me ne occorre uno, e per l'altro è a 4 punte per cappa. Cappa, la tua volta se si trova. Però per quello a 4 punte, aspetta un attimo, ti voglio far sentire questa l'altra radio, Pierpa, perché non è, a me non mi sembra spinto come microfono, dammi 2 secondi che passo l'altro microfono. Pierpa. Allora, questo è l'altra apparecchio con il microfono normale, normale, normale. E si sente normale un po' la sera, tanto c'è un po' di naso. Vero. Infatti, è per quello che l'avrei voluto amplificato su questa apparecchio. E come mai non c'è su quello apparecchio amplificato? Perché questo qui è quello normale, quello che dà la dotazione. No, ma ce l'ho capito. Ecco perché avrei voluto mettere qualcosina che mi avesse dato una mano, almeno nella voce. Ma fa mettere male, se non lì ci metti, ma tu quello vuoi. Quella radio lì non ce l'ho l'eco di suo. Questa sì. Ci metti un bel microfono a tavolo. Ascolta, ma l'eco c'è adesso, si sente? Sì che c'è. E tu dici di metterci un microfono da tavolo qui? Quello suona bene con un microfono da tavolo. Quello come, non mi ricordo come ce l'ha quello, però si può fare una prova, vero, come spinge, si può fare una prova. Pierpa, questo qui è a 4, ha lo stesso attacco del Proxel. Quello c'ha 4 attacchi, no? Cappa, ma del Proxel, del Maxon. Lo proviamo un attacco, ma lo proviamo. Perché questo mi sa che mi... non lo so, io non mi sento perché alla volta non ne ho, però... Hai ragione, c'ho un po' di naso già, dai. E questo qua è proprio normale, normale, normale. Ecco perché io gli volevo mettere un Proxel. Quello lì va bene, un Proxel. Però guarda, sono sicuro che quello lì dovrebbe andare bene. Lo proviamo, si può fare la prova, Positivo, Pierpa, positivo. Lo proviamo con una prolunga prima di tutto. Ci dovrei avere la prolunga già fatta. Oh. Sì, ci dovrei avere una prolunga di prova, così ci dovrei avere una prolunga di uso per fare le prove. E si può provare. Positivo, positivo, anche se sono abituato a questi, ti dico di microfoni comunque. Sì, ma se tu lo usi da tavolo lì con quella parete si sposa bene, tra l'altro, con quella parete così, se lo metti sul tavolo e vai a usarlo, vedrai che dici che va per cosa. Beh, sicuramente, sicuramente, Pierpa. Questo che ho io l'ho già modificato pure, tra l'altro. male, uno che conosco io per caso. L'hai già usato? Ah, capa, sì, sì, me lo ricordo. Lo sai come ci vuoi una bomba? Capa, ma quelli lì si possono mettere sull'apparecchio? Certo, si può mettere, c'è il pirita. Capa, perché io qua oramai il posto è molto ristretto. Lo so, ma non è che ne prende tanto spazio, eh. Vabbè, prima fai la prova e poi mi lo sentiamo e vediamo come va. È positivo, Pierpaolo, ci sto, perché questo non mi sta rendendo giustizia. Cosa, non è che puoi pretendere da quello, anzi, va bene per essere normale, va anche più che bene. Vediamo un po' così, Pier, ma si è migliorato. E così ha migliorato, sì, è più forte adesso. Siamo sempre lì, perché quello là ti aiuta in ogni maniera, cioè in ogni modo ti aiuta con l'amplificata. Capito. Però prova che ce l'ho loco, che faceva, vedi, lo va di pia, il sapparecchio. Capa, non posso immaginare. Guarda, e poi il bello è che puoi avere anche le mani libere con quello. Anche, ti ricordo che avevo fatto vedere che c'è il blocco. Capa, da ricordarsi che quello non vuole lasciarlo aperto. Certamente. Lo sai come ero abituato io, Pierpaolo? Come in radio, no? Che aveva il pulsantino sotto il coso, schiacciava e usciva. Sì, vai Marco, ma faccio, una volta per ci prendi l'abitudine, io ero abituato anche al giorno di tre, poi non muovo più, Perché arrivato a un certo punto poi si riesce a sposarti bene con un microfono e già ti dà una bella radio, poi magari ti aggiusta anche un tantino la voce e tutto riguadagnato. No, purtroppo qua non posso metterlo, se no l'avrei messo, perché a me piace più l'ottavo, anche perché ti disimpegna meglio, è più facile, ti impari da lontano. Qua purtroppo non posso mettere questo, non lo so. Qua non siamo soltanto i normali, infatti questo è normale, il mio è normale, su questi qua avrei voluto vedere, ma non si può. Capa, lo sai qui come sarebbe piaciuto a me? Messo un centrino piccolino sopra e lui appoggiato sull'apparecchio, perché così riesco a vedere anche la strumentazione. Adesso me lo sto ricordando pian pianino, ma ricordami, ma il celestino mi pare rimaneva. Cosa? Se non mi ricordo male rimaneva sul celestino. Celestino, nero è. Oh, nero è, boh, vacca, perché pare che sto facendo un po' di confusione. Comunque mi pare che quando avevo gli apparecchi dell'altra stampa, mi pare che l'ho avuto. L'avevo provato già. E di pompa che cosa male. Ma che, la voglia. Cavacava, e allora mi sa che con la prova la facciamo, sì, Pierpa, poi vediamo un pochino come esco. Certo, la facciamo anche per provare a vedere come spinge come va a tavola. Ma quelli, quel modello lì specialmente si sposa bene con un microfono a tavola. È positivo, Pierpa, perché ti ripeto, se va bene ho fatto per loro. Io l'ho visto uno che già su Facebook uguale al mio, uguale, e pompa e si sente nel video, si sente pompare forte. Quelli lì sono anche amplificati, quindi poi quello che tu hai messo mano, quindi già va bene, Pierpa. Questo è amplificato, è modificato pure. Figurati, e allora guarda, mi sa che se ce la facciamo lo provo domani stesso. Vediamo se ce la facciamo, proviamo lo stesso, perché bisogna provare innanzitutto le prolunghe, che ho delle prolunghe per fare delle prove io. E adesso sinceramente non mi ricordo più qual è quella per quell'attacco, bisogna provare tutti e due. Non è nessun problema. Perché adesso mi ricordo, e una era con l'attacco così, e americana, e uno era per i Midland. Però avanti, mi dica lei, non me la metto più, bisogna provare tutti e due. Ok, domani e ti faccio vedere, ti ricordi quello della Zeta G che avevo, quello con i cosi gialli, con il con la copertura del Nike giallo? Sì, nel 93 mi pare, o 94 poi. Positivo, nel 93. E non sta facendo bene per là. Come mai? Cosa ha fatto? Ma non lo so, ieri l'ho provato e niente. E stavo facendo uno schifo. E l'ho controllato, ho provato a vedere le cose, no? Le saldature che c'erano. Nello spinotto ed erano tutti i gatti male. Ho preso, le ho tutte quante staccate e ho conservato il, ho pulito bene il coso, no, l'attacco dove ci vanno le saldature, e bisognerebbe rifarla. Se lo fa, si può vedere, dai, io non ho più problema per quello. Le vediamo, già è una cosa facile. Ma quello che stavo dicendo male, poi si può la batteria. Lo sai perché? Perché lo proviamo anche quelle 93 firma. Perché c'è proprio il microfono che non serve il lampo, perché se no mi sto tenendo tanta di quella cosa qui a casa. E se non me ne faccio niente, inutile che mi occupi tanto un po'. No, c'è un paio da ore, magari quella è la batteria scarica, se stavo dicendo da schifo. Oh, ancora, tu apparecchi con attacchi a 4 ne hai. Io ho parecchi con attacchi a 4, sì che ce l'ho. Oh, e allora facciamo così, e se io lo lascio quel microfono con l'attacco suo, che l'attacco suo è a 4, e me lo provi tu quel microfono? Sì, non c'è problema. Perché buttarlo ed è buono, mi dispiace, mi hai capito? Quindi meglio che lo veda una persona competente, mi può dire Giuseppe, e va bene oppure Giuseppe, porto tiro. Vediamo. Non c'è problema. Vabbè, così io ti devo lasciare perché adesso devo andare a fare le cose casalinghe, purtroppo, perché tocca a me. Positivo, che va. Vai tranquillo e non preoccuparti, dai. E ci risentiamo presto, buon 144, quando lo fai. Tanti salutoni alla persona che sei tu, che va, e niente, e ci sentiamo. Quando vuoi io ho sempre il telefono aperto. Ok, già ci sentiamo domani, dai. Positivo, ciao Pierpa, ci sentiamo. Ciao, ciao, buonanotte. Buonanotte Gianni, sogni d'oro, eh. Oh, come più brucchio, eh. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao, Pierpa, buonanotte. Doppio rumore. Su che andiamo, bombolino. Doppio rumore è caduto tra le braccia di Bonavio. Sicuramente. Ma sta lavorando oggi? Negativo. Ancora in alto mare. Però è che ne so. Doppio rumore, alzati e cammina. Oh, Popoli, meno male che abbiano si addormentato con le mai schiacciate. Sicuramente. Lucchetto. Non ci sta più. Lucchetto ha chiuso le trasmissioni. Veramente sì. Dai, amico, che già è sabato domani. Kappa. Io non c'è problema, ma va. Sarò. Chissà cosa, in nome. Ti accade in un culo. E cosa c'è, Popoli? C'è un Facebook. Ah, lui, già sono venuti senza entrare. Ma Cazzo, allora parli tu, oro. O Giuseppe. Ehi, dimmi, dimmi. Ma con lei cosa è molto ti sceve, cazzo. E perché? Cosa adesso? Vabbè, per carità. Vabbè, ti dirò, quanta dai. Ma se cosa ne so, Buccia? Oh, Giuseppe. E caro Vizzi, Bobboli. Piacca. Non mi tocca nemmeno, guarda. Oh, figurati, qui a casa ma non ci arriva. Sagliata. Tanto guarda, non ci arrivo, che proprio non me ne passa mamma paruru, lui, detto proprio papere papere, usando la frase. Perché non si, dico la gente perché non si guarda a cazzo, io non riesco a capire. Lo sai perché, Antonio? Perché vuol dire che durante il giorno non hanno da fare che andare a controllare le pieghe degli altri, tutto lì è il discorso. Ma se l'ha fatto un cugnolo di andare a giudizio pure, ma se già fatto ancora non ha compreso nulla. Cazzo diavolo. Non c'è musica da nessuno e mi un viaggio alle palle. Cazzo, ma allora sei tonto proprio. Sì, cappa, vedete, Bomboli, tanto cazzo, ti incatti, non ne vale manco la pena. Vedi oggi con quei di fa, come ti porto io, a paragoni macchi e a recisori. Cappa. Guarda, io non bevo mai, ma se mi trovo a cotto, io già. Cioè, allora come stai giù, una macchinetta di vento. Ma non conviene manco dare soddisfazione. Io molte volte, anche se sento, faccio finta di non sentire e crepati di più, perché non gli torno risposta e non hanno manco considerazione da parte mia, ma zero, Cappa. Beh, allora ti dico. Mi piace avere un cucro, adesso che in parte. Punto, finito il discorso. A me guarda, ti dico, quando parlano per me posso rimanere anche un mese, parlando, dicendo, proprio a nome da frutto. Non cerco a nessuno, non mi piace che mi cerchino, e se mi cercano proprio a nome da frutto da romantici. Non me la fotte niente, no, sarà. Ehi, Bomboli, troppa soddisfazione, troppi chiaramenti, troppi cose. Io ho altre cose a cui pensare. Quando entro per fare una chiacchierata, tranquillo, si vede arrivare in bocca alle dita, c'è la scherzata, si scherza, senza mettere problemi con nessuno. Cappa. Ma non si è mai praticato nessuno, per l'ennesima volta è successo. Spero che faccio finta di niente, va. Però una cosa però voglio fare. Ragazzi, questo. Sì, positivo, poi magari già avremo occasione di parlarne in verticale con voi. Ragazzi, vedo il discorso che è meglio, va. E beh, Giuseppe, fatene abbiamo trascorso. Figlia, oggi ero solo a Tempio, ho fatto Tempio calangiandosi e c'è l'imbara che è sfruttato di neve. Vero. Cappara. Sì, il tuo periodo di chi mi fa un bel freddo? Ah, come di freddo? Si va via i pantaloni della divisa che era di Cancarara. Si rimbottiglia per andare in quelle zone. Eia, c'era freddo, c'erano 7 gradi, ma ti dico con un'aria che ti taglia a pelle su. Cappa. Le sue. Aria montagnina. Eia, ha giù arrecato rovinoni di leva, da precami. Vuol dire che non è roba pura, me. Ah, guarda, quell'acqua lì dove la prendo io da quella fonte è una meraviglia. soprattutto in questo periodo dice che è ancora più buona. Oh, ci ha messo, ho cronometrato, ci ha messo 10 secondi a riempire il bidone da 20 litri. Ma lo sai quel tubo come stava scendendo, Anto? Faria un gol, una motopompa dei vigili del fuoco. Kappa. Beh, c'è un po' di acqua, cioè. Se vuoi acqua buona perché è fredda. Ma buona perché poi scende dai monti, poi lì è tutto il coso proprio granitico, hai capito? Quindi l'acqua prende tutti quei minerali ed è una meraviglia. Cappa, allora è roba incontaminata. È positivo, positivo. Un giorno se ce la facciamo, mi riusciamo a farci una gita, ce la andiamo proprio sull'Impara, guarda, c'è, è uno spettacolo. Già va bene tutto. Andiamo, mangiamo, arrufiamo e su che si arrulla. Ragazza. Io ci sono stato, ci sono passato anche in camion e ti dico che è uno spettacolo quella zona, ma proprio casa di che sei un benacchio in Kiribati. Ah, la verità no. Non ci sono mai andato. Dove stai dicendo tu? A tempo sono andato, ma nell'Impara proprio no. Magari vicino ci sono passato. Proprio su in cima al coso, all'Impara. È micidiale, ecco, proprio senti quell'aria bella fina, proprio quella è di lusso. Già me lo posso immaginare. Già. Poi ci sono anche delle fonti e l'acqua proprio che sgorga lì dal monte. E infatti lì se si va conviene mettersi un po' di bidone in macchina, perché ritornare senza quell'acqua è un peccato. Peccato sì. Io quando sono salito in camion avevo fatto il giro da Coso, avevo fatto il giro da Tula, ero passato da Tula e poi avevo fatto Irula e tutte quelle zone lì sino a salire proprio sul Coso, sull'Impara. Cavolo, ma in camion, cazzo, uno spettacolo, c'ero in alto con la cabina, no? In più tutto il paesaggio che vedi, cavolo, ma micidiale. Ma è poco, cibo. E lo sai che cosa conviene portare, non il telefonino ma la macchina fotografica digitale, ti fai delle foto che sono meravigliose. Ma me lo posso immaginare. Adesso lì c'è la montagna, io ho freddo. In Libia mamma mia, è un freddo cazzo che ti si inciccia, che ti sarà di città. E lì è bello, no, già è bello perché poi sembra così, però quello è proprio un freddo sano, non è un freddo umido, mi hai capito? È roba sana, eh? È per quello che ti sto dicendo, che l'acqua lì è purissima pure. E è buona, buona. Mi ho riempito un po' di bottiglie che tengo in camion, mi sono riempito i bidoni e andò, e fa un poco e va bene. Voglia, bidone a 20 litri. Bidone a 20 litri in più un paio di bottiglie. Ma ci credi che ho aperto la bottiglia che ho riempito stamattina, andò? Era in camion, poi come sono arrivato qui a Sassari ci ho messo tutto in macchina. So che arrivi di nuovo, ho aperto la bottiglia, lo sai che era ghiacciata quell'acqua. Rimane sempre fredda, rimane. Eia, ti sto dicendo che sembrava tolta dal frigorifero. Non so già. Guarda. Però guarda, schiccio la casa e ti fa di pisciare un peppero, mio. Già lo so già. Fa bene quell'acqua. Quella lì, anche se non è quella di Rinaggio, ha sempre delle proprietà, dice, diuretiche, che fanno bene ai reni. Kappa. Sarebbe bere sempre un'acqua ottima, ottima proprio. Di lusso, è di lusso, mamma mia. Ma dimmi una cosa, ma i nomi è cotturato oggi? ieri notte, no, anzi, ieri sera egli ha grandinato qui. Faccio da un ecco. Eia. Grazie. Cavolo, però lo sai, dalle 5 non so più cosa fare. Chiappa, non so che svegliamo. Poi con l'orario, no, che adesso si esce alle 5 la sera, tu è troppo freddo. Così è. Cavolo, è alle 5 a casa, cioè cosa vi voto? Come vai non bello? E sei buttato da una sedia all'altra, tutti stanno lavorando, tutti sovvendicati, e poi mi annoio, cioè cosa faccio? Ma cosa ti stai facendo o non stai più facendo? Li sto facendo perché ci sono state due urgenze. Però ufficialmente non li dovrei fare, però adesso a quanto stiamo a sistemare per bene le cose, per forza di cosa sono dovuto andare, perché quello là è la stessa materiale, hai capito? È fatto bene. E poi per giunta lunedì siamo anche chiusi perché è San Nicola, quindi faceva lui. E oggi, domani, dopodomani e lunedì senza materiale, quindi lo prendeva martedì. E come dire che io lavoravo a questo. Chiaro, vabbè, è fatto bene a portarlo. Capo, poi era anche un bel carico mio, non è che potevi lasciarlo così scoperto, perché anche quello lì c'ha operai che hanno famiglia, quindi lui dice se lascio gli operai a casa, e per forza di cose, la giornata non gliela devi pagare, hai capito? Capo, io bene a poi giù ho già cominciato piano piano, e poi niente, dal primo di gennaio si parte ufficialmente. Mi devo arrivare la brusa, il gatto, come si chiama? Il gatto a 7 o 9 code, o intera. Chiama, questo è l'incapannone, sai? Positivo. Mi baranuglia, no? Sì, insomma, già ce n'è da fare, sì, sempre. Chiama, il carico del camion, sai? E gestire di tutto lo tirare avanti lo stabilimento. Ma pure quello vuole fatto. Perché non è solo fare il carico dei camion, seguire i clienti, le telefonate, fare le bolle, tutte quelle cose lì vogliono fare. Sei a un grido già. E quindi adesso, già da adesso lo sto facendo, perché poi, ti ripeto, a inizio anno si parte proprio ufficialmente, quindi devi tenere sempre il telefono in tasca, il portatile, ti vanno, ti arrivi, ti guardano meno di 200-300 telefonati al giorno. Deve abituarti a organizzare tutto il lavoro, deve abituarti. Lì è un casino. Sì, è un casino, servire tutta la Sardegna, telefonate a destra, ti chiamano su dal continente, e devi preparare questo, poi ti chiama che taglio, che urgente, vedi, possono capitare anche le cose, le urgenze, devi essere pronto a cosa, a gestirle. E lo già credo già che deve essere pronto. Oh, paghi su Antò, se mi vedete correndo casa da Sassari a casa, ricatta a piedi, con gli gatti sono vicino di capo. Gabba, e soprattutto devo ricordarti di tutto, perché cazzo, se non ti ricordi qualcosa incasini tutto. Infatti c'è anche quello, perché non è che stai andando dietro l'angolo col camion, a dire me ne sono dimenticato, me lo pongo in macchina e glielo porti, hai capito? No, non è facile, no. Fare quel lavoro lì, devi stare molto attento, ti devi scrivere tutto, prendere tutti gli appunti, non è facile. Piano piano adesso vediamo l'evolversi della situazione, a tutto, da poi vediamo che cosa ne viene fuori. Guarda, basta organizzarci bene, ne viene farci la grande. È positivo, lì l'importante è scrivere tutto, perché poi in base a quello che scrivi va caricato, hai capito? Perché poi giornalmente ci sarà un programma, anche se sarà un programma diverso, uno ogni giorno diverso, no, come programma, però basta seguirlo e si fa quello durante il giorno. Ti serve una data di curare il bolle, non ti puoi permettere di sbagliare. Eia, va proprio quelli lì col computer e via, già c'è tutto, c'è stampante e in chi vi già prende. Però vuole sempre fare. Vuole sempre fatto lì, devi controllare tutto, sei molto attento. Non cazzo, tutto di casino. No, se uno fa bene bene attento a tutti i particolari già va bene. E è tutto, tutto, tutto, tutto, dall'apertura dello stabilimento sino alla chiusura. Cazzo. Positivo. Cosa dici Antonio? E tu domani devi anche trapaccare. Come vuoi tu. Tanto io per me, io domani non lavoro, quindi non è, problema non ne ho, però io rispetto anche chi lavora, Cazzagazza. Ah, se non hai problemi tu, io 5 minuti me la faccio. Positivo, non c'è problema, altri 5 minuti ce li facciamo tu, senza nessun problema, ci mancherebbe altro. Non è quello il coso, il problema. Quando si discute bene, tranquilli, proprio in armonia, poi assicate troppo bene. Sì, a voi, a chi sta più bene di noi. Kappa. Oioia. Io vado un culo oggi, oioia. Me lo posso immaginare, a tuo cavolo con tua mano, la voi a sette parenti, mamma mia. Viaggiando come dei pazzi. Poi ho visto anche che qualcosa già te la capi bene, il tuo mestiere già lo conosci, cavolo, però è sempre pesante. Cazzagazza, e tu non fai veloce. Non fai veloce chi sul travaglio se uno mo besso. Infatti, non è che uno fa aspettare una giornata per avere una popola, ma che da poi quando cominciano ad arrivarti i telefonati una dietro l'altra ti basterisce di capo. Cappa. Se non sei abbastanza sbrigativo. Infatti quando ti fanno perdere più di quel tempo lì, già sei. Non riesci neanche a lavorare perché già ti incassi, perché sai che devi sbrigarti. E infatti, perché poi in una maniera o nell'altra devi recuperare. Alleluia. E poi la cosa brutta è quando cominci a trovare anche traffico. Mamma mia, cara. Lo so, se tu vuoi un po' di sopportazione, guarda. Trovi anche i clienti bravi, i clienti rompipalle, purtroppo è così quel lavoro. Quello già è vero, di cose con i clienti ce ne sono di mille maniere, c'è quello che capisce, c'è quello che proprio non ne comprende nulla, apre bocca senza nemmeno ragionare, e già lo so, la gente che lavora a contatto con il cliente deve avere un po' di pazienza. Per non andare lontano, chissà chi si è andato giù a causa domandare l'antenna. Chi sa, allora mi ha fatto due balle che non ti dico. Cazzo che stavo a parlare di. Quindi che cosa volevo, ho detto, guardi che. E se sono dietro il banco so quello che sto facendo. Ciao. Oiaia, la scelta mi ha fatto un pezzo, guarda che devo aprire così un pochettino a ridere, però sarebbe stato di mandarla proprio Io l'unica cosa che gli ho detto, ascolti, faccio una cosa, faccia come vuole, se la prenda dove vuole. Sì, infatti, io quando gli ho detto poi, no? Ho detto, ma quando mai, ho detto, qui a Sassari non state più portando niente, ho detto, poi vi lamentate quando la gente va a comprare fuori o va a comprare in internet. Allora, sono sempre più di Palermo. Ehi, ma non si è perdavati, Manuel, lo sai cosa mi ha detto? E che cosa ordino? Tanto Sassari di zì è come un paesotto, perché città è Sassari? Che bella. Ma che non si dorrando in aggiunta. Infatti, magari adesso che hanno fatto qualche soldino, no? E stanno alzando anche la voce. Però prima, te lo ricordo. Beh, prima dovevi mettere la maglia. La taglia te l'ho già rifatta. Regina l'ha fatta. E beh certo, infatti, anche se qualcosa non gliela compri a quella non è che ci rovini la carriera. Però comunque io ho fatto una cosa, che grazie un bel più fornito di loro, sia di lei che di Italia che a Serrasette. No. La taglia non ne ha fatti nulla, sono già arrivate, so. Tu provi comunque abbiamo fatto duro, ma non gliene dare a quella lì, non gliene dare. Già, a me dispiace per Antonello un po'. Impressionante. Ah, bene. A me dispiace un po' per Antonello. Lo so. Allora, tutto un bagaglio, è che era rompendo il ricatto per fare un bridge, dite che era durata poco. Via, sì. Una persona che ne guadagna tutta quanta la vita, cioè tutto il lavoro e va a rompere le scatole. Ma poi lo sai qual è il discorso, Antonio? Che quella lì c'è una vita lì in mezzo, no? E ancora non si è resa conto che non ha ancora capito niente di quel lavoro. Se tu vai a chiedergli qualcosina che si allontana un pezzo di capo, non sa più che cosa fare. Secondo me non ha mai compreso nulla. La stessa cosa che ho pensato io l'altro giorno. L'altro giorno perché, ti ripeto, quando gli ho chiesto, e non è che gli stavo chiedendo qualcosa di difficile, no. Ha cominciato a cosa e ha chiamato subito a cosa, Antonello. Già quello lì era disperato in mezzo ai cosi, cercando, facendo cose. In più, quando vai a rompergli anche le scatole, c'è un articolo che puoi controllare benissimo. Chiama lui perché non ne capisce nulla. Logicamente loro non ne hanno mai avuto di quegli articoli lì, mai. Hanno sempre da anni hanno sempre avuto la lena. Quindi è logico che magari quello se ne intende, ma Eta non ne comprende nulla. Eta non comprende, ma quindi può ne ripeti Antonio. Chiappa. Ci sei la domanda alla sorella, mi ha fatto se cosa. E vedi, anche qui, adesso sapendo anche delle condizioni in cui sono loro, magari a non aprire qualche altro negozio di cose così di elettronica, perché se il negozio è fornito, io sono sicuro che la gente ci va. Allora, sono loro che non ne vogliono fare. Eglia, infatti dico, avessero aperto un altro negozio, anche al centro di Sassari, senza essere a Bretagneta, che fuori mano, no. Però bello fornito, hai capito? Con il PL come si deve, con tutte le cose che possono servire per fare e mantenere soprattutto una stazione radio, io sono sicuro che avrebbe lavorato quel negozio. Yeah. Ma non se ne mettiamo manco in testa di fare cose del genere, soprattutto quelli lì. Oramai Guido è tornato a burlare a Brasile, c'era una fabbrica di antenne di tutte queste cose qua. No, non gliene importa più nulla. Immaginiamoci se già non hanno fornito il negozio lì, immaginiamoci se fanno qualche altra cosa, ma manco per sogno. E beh, in effetti da come l'avevo conosciuto io quel negozio, ha messo e cioè è diventato un coso, un cimitero quel negozio, proprio si è svuotato, si è proprio cade nudo e crudo, trovi giusto quel cavo che ti serve, delle volte non c'ha più manco un isso, figurati. Dove si fa misericordia di trova gente. Ehi, io ti sto dicendo, l'altra mattina quando sono andato non c'era nessuno, non c'era nessuno, ed era già, ti posso dire che erano già le 11 passate erano, quindi hai voglia che quei negozi, tu dovevi vedere prima, c'era la fila, dovevi aspettare anche più di mezz'ora quante volte, mi ricordo quando ero ragazzo, più di mezz'ora prima che toccassi a me a essere servito. E che fai così, però c'è sempre gente che ha tenuto dei soldi in tasca. Eia, sì, quello sì, ha tutto. Non è venuto in animale lampato, no? No, puttinosi le vecchie, che fa, almeno quello lì c'è da dirlo, non è come te stessi, che hanno avuto tutto e sono andati di la vicina. Loro no, hanno avuto tutto, i soldi se sono tenuti. E niente, cioè Eddie personalmente Vani un medi di Napa, me lo posso immaginare. Poi il discorso atto è che la questione dei soldi, diciamo che hanno anche saputo come tenerli e magari farseli fruttare anche quei soldi, perché c'è gente magari che era quanto loro che adesso non ci avranno 5 lire in tasca. La moglie è un figliolo americana. Oh, allora anzi una regata in Nokia, va, io so tutto, lo so, perché sono clienti miei. Ma è domanda, figlio lo saprà, è più grande di Marchia, cioè di quella che hanno lavorando lì al negozio, penso che sia il figlio più grande. E già va bene, l'importante è che, ti ripeto, i soldi a entrare, guarda, ci vuole un sacco di tempo, a uscire ci vuole un secondo, bisogna anche saperli amministrare bene. Voi quelli si mettono in tasca sempre, non so di chi dà niente che disperderà, ma manco pensandoci. Vuol dire che sono stati indirizzati bene, allora vuol dire che già da quando erano ragazzi e gli hanno avuto già un certo coso di educazione e a capire anche il valore dei soldi. Ma che quello adesso non te ne lampano, no? Sono brutto, lo abitano tutto. Mannaggia, un peccato però, un negozio così poi al centro, ti ripeto, io l'altra mattina quando sono entrato non era un'anima, e da poi non c'hanno quasi più niente, a tu credi. Poi se è vero anche dice che devono mollare, così si dice in giro. Ho capito io, sì, perché è andato in pensione lui. Magari avessero lasciato tutto quanto a cosa ad Antonello, dico, tanto fatto, tanto il mestiere già lo conosce. Ma voi già lo conosco. Però adesso vediamo, chissà che lo prenda lui. Io non lo so quando se ne lasciano. E infatti c'è da dire anche quello, bisogna vedere se ve lo lasciano. Ma sono convinto che se va in mano a coso si sa fare, oramai tanti anni ha avviato. Infatti è quello che stavo dicendo, se poi lui è furbo, comincia a portare anche qualche articolo nuovo, si mette in casa un pochino di cosa di quella che gira mi ha tutto. hai capito, cioè roba che arriva e vendi subito, cioè materiale, metti di ricambio, iniziando dai piene, però che si voli, e ti porti un pochino di microfonia, di queste cose qui, poi la voce si sparge subito. Bisogna saperci fare quel lavoro. Beh certo, bisogna avere solo un pochino di coraggio ogni molte volte, a spendere qualche soldino in più per portarla la roba, non aspettare come te maledetta, beh cazzo, dobbiamo aspettare per fare l'ordine e ne devo ordinare 50 di antenne, cazzo 50 dopo 10 mesi, cazzo non abbiamo ancora ordinato 5 di antenne, figurati. Cazzo, ma adesso già c'è già. Già lo so, adesso ce l'abbiamo se li tiene. Il discorso è che tu la roba la devi vendere quando c'è la richiesta, hai capito? È inutile che la roba ti arriva quando uno se l'ha già comprata da fuori. Ecco che torniamo al discorso che stavamo facendo poco fa. Cavolo. Chiedere una cosa, Giuseppe. Naradon tu. Sei ripreso la storia. Come? Ripreso la storia. La storia? La storma, loro ci compro. Eia! Appa, e non l'avevamo piatti su. No, l'ho presa da coso, da coso, da come si chiama? Da internet, però è roba usata. Ma è buona, come quella che ci avevi. Sì, che lo so, sai, romani con il rogio, mi sa tutta niente. Della Midland. Ah boh, non lo so Anto, gli manca la scritta, gli manca tutto, però vedo che funziona, è uguale a quella che avevo prima. Capa, c'è cosa, c'è forno già si riconosce già. Eia, sembra un coso, un manico di ricopo. Capa. Non lo prendiamo ancora un tissuto. Se fai una scalata, almeno ce l'hai anche dall'altra parte. C'è l'idea, ma non adesso, adesso non si può salire perché con questo tempo lì adesso bisogna aspettare quando arriva il bel tempo, quando le tegole sono asciutte, che si può fare qualcosina, allora un pensierino ce lo faccio. Se ha promesso l'altra volta, la scelta è tutte e due. Tieni in basso, una alla parte o all'altra, non è voluto la reversa. Ma era giusto per non avere anche quel palo che era proprio in cima lì, era anche brutto da vedere. Ma ne attaccavi un altro, ne attaccavi Dio. Sì, ma adesso io sai cosa faccio, quando c'è il tempo salgo e l'attacco al palo dell'antenna stesso. Io metto un pezzo di tubo così gira e l'attacchi sempre lì. Eia, ma così sì, ma non dove era prima, dove ce l'avevo prima, che era brutta quella tenda, già stavano anche dicendo cosa, cazzo, che l'aveva buttato più all'angolo lì del tetto, ne toglieva gli occhi al cieco, che poi da poi era barritoria. Già, lo metti bene, metti un pezzo di cosa, il tubo così girato con una staffa, dritta, e via. A monti così, almeno ce l'hai una seconda antenna. Se ti capita che sei in cucina ti sentono tutti, eh. Certo, certo, non è quello, anche perché lì in cucina la posso usare anche col ricevitore. Allora riceve dappertutto. E capa. Che poi volendo quella lì, anche senza attaccarla all'antenna, la posso attaccare anche lì al muro dove ci sono gli altri pali delle antenne. Se c'è un palo libero, sì. E capa, già si trova un palo libero lì su. Adesso quando viene il bel tempo di nuovo, perché adesso è impossibile salirci, anche perché con le tegole bagnate, se ci metti il piede sopra, spacca quanto c'è. E capa, sblocchiamo la mano del gol. E infatti, a parte il rischio, poi di fare danno lì non va bene. Vabbè, diciamo che se avresti una cosa veloce la fai subito in una galata, non è che perché è facile da montare, non stai montando una manto, vai. Sì, da buttare e ci vuole un attimo, non è quello il problema, quello sì. Però ripeto, bisogna trovare sempre le condizioni giuste del tempo. Cioè, va bene che fa un pochettino di giornata bella. 5 minuti ci vuole a montarla, mi pare un cavo io se via. Attacche. E siamo già tornati. Certo, però ce l'hai su, ce l'hai. Sai che è un'antenna che va. Cioè che si riesce a sentirti tutte, se no io gli avevo sentito, no, cioè non si chiedono. Capa. Buona è l'antenna. Oh Giuseppe. Come andato? Buona è. Sembra abbastanza buona. Chiappa. Funziona. Sì, funzionare funziona. Un po' vecchiotta è, ma non mi interessa. Tanto è roba che va all'esterno. Chiappa. Cioè, proprio di chi su dell'estetica non ne frega niente, tanto va sul tetto, non è roba che mi devo, non è un indumento, no, che ti devi mettere addosso. L'importante è che funzioni. Se fate quel materiale lì da sempre, no, non è venuta. Infatti. Sì, comunque già serve sempre averne una discorsa. Niente, compara. Come? Continente le piglia. No, uno di Cagliari, da cosa, da IP. Cappa, ce l'aveva così. Eia, e niente, l'ho presa e dopo 2 giorni era qui. L'ho fatta arrivare in stabilimento. Cappa, è fatto bene. È vero, cioè arrivate a un certo punto, l'ho vista, c'era l'altra, casa della giubilata, 20 euro mitra, coso e tutto. Gatto. No, aspetta un attimo. E comunque va bene, dai. E cavolo se va bene. Poi in casa con 20 euro che cosa compri a tu? Nulla. Mi è andata bene e via. L'ho vista, ho detto, se va va, se non va va bene. Tu la volevi te la davo io. Che cosa? Bella. Ah, oh, è perché? Ce l'ho. Ehi, ma poco fa è la tua. Gaffa. E comunque io ce l'avrei messa su. Le zappe ce li ha. Ed è tutta da vedere a tu, perché ce l'abbiamo la piatta bene. Ho detto le zappe ce li ha. No. E invece vuole poco mi abbatterà la fama. Gaffa. E vabbè. E comunque sono antenne buone. E già vanno bene. Io mi ricordo prima quando ce l'avevo sul tetto, uscivo e mi sentivano. È giusto per, cioè, perché se usi una radio da un'altra parte almeno ti sentono. E sì, vabbè. Già serve sempre avere un punto di riferimento, anche in un'altra stanza, perché in una stanza solo in effetti o ce l'hai solo a vista per stazione radio una stanza, oppure con una calata non fai niente. Cappa. Ma quando si cucina ascolti più bene, senti, è migliore, dai. E infatti, anche perché in camera non ne metto, non ne ho messo, non le metterò mai. Non sei scatola, no? Oh, e a parte il fatto che c'è scuri il baracchino da camera, non è proprio, non è, manco a pensarci. Cappa. Allora non dorme la piccolina. Eia, adesso la piccolina è nel letto grande. Quindi va per uomo. E rulliamo alla grande. Monella. Cappa. Poi vediamo, adesso magari più là quando c'ho due soldi, mi voglio fare un mobile lì in cucina dove poterci mettere tutto quanto dentro, tutto bello a ripiano. E almeno tiene due postazioni, un'antenna più piccola via. È positivo. Ecco. Tanto prima di tutto quando è su, se è buona l'antenna, prima di tutto se è su, ascolti meglio, cioè. Certo non è la manto, va però. Positivo. Avanti il preco preco sul 21. Ciao, buonasera, cordiali. Salve buon Sabia. Niente, giusto per un controllo di radio voce. Buonasera a te Sandro, Giuseppe da questa parte in compagnia di Pongolo. Radio Super 5 e Santiago 8 qui nella mia postazione, K. Ciao, buon ascolto. Va bene, ascolto anche a te Sandro. Ok, dai. Stavo giusto mettendo a posto un mic un po' particolare, quindi non può andare tutto lì. Perché non riesco ad ascoltarti bene? Non ho capito come. Perché non riesco ad ascoltarti bene? Mi dovrei scusare, ma ti ascolto in sottofondo, sì, un po' bassino. Se non ho capito male, diceva che non mi ascolta bene. Esatto, faccio un po' di difficoltà a tirarti fuori. Praticamente mi sento un pochettino strappato, mi sembra che abbia qualcosa attaccata. Attaccato non so niente. Se poco fa non vi ho potuto avvisare, ma è venuta gente a casa e ho dovuto mollare. Quindi hai sentito tutto quando ti stavamo parlando male? No, negativo, non ho sentito nulla perché mi sono proprio allontanato dall'apparecchio e sono andato dall'altra parte. Mannaggia, potevi alzare il volume così sentivi cosa tutto ti abbiamo detto. Giuseppe, oramai le spalle sono larghe, dai, tutti quanti mi dicono cose. Da parte vostra non mi offendo, non c'è un problema. Non mi offendo da parte vostra, capito? Sì, Gacchino dice la gancara della Ringa, però. Ma la picciola, però nonostante tutto lo sai che ti vogliamo bene. No, non è per lui, dai. Poi, ma non stiamo lì a pensare a quelle cose, già guarda, ci stavamo parlando poco fa. Io ti ripeto, entro, mi faccio la chiacchierata, poi chi mi vuol dire bene e mi va bene, chi mi parla male mi va bene lo stesso, guarda, non mi adiro più. Kappa. E avete altro secondo. Kappa già. Noi quando diciamo è sempre in senso buono, ma è stato sbagliato. Ok, Kappa. No, stavo dicendo, Giuseppe, non riesco a Sandro, non riesco a farlo molto bene perché c'è qualcosa di strano nella modulazione, hai capito? Sicuramente c'è qualcosa di molto forte attaccato. A me ha detto che stavo uscendo liscio, Popolì. Qui perlomeno da me stava arrivando buono come segnale, però la radio era ottima e perlomeno qui era proprio bella, chiara. Forse io non sono riuscito a sentirlo bene. Ok, bene. No, non ho niente. facendo male. In particolare da, diciamo, da centrare. Sono microfoni che tramite il proprio timbro di voce vogliono al millesimo, diciamo, concentrati. Tutto lì. Sarà per quello. Poi mi dà curiosità, ma quella radio lì più scalda e più migliora? Quale? Questa radio qua, ma non lo so, è un Midland 48. Oh Sandro, delle 48 quali? Il multi oppure il plus? Il Midland 48 BS. Ah, KK. No, io le 48 e poi ho anche il multi. E ti dico che sono delle belle radioline. Ti posso dire che ce l'ho già un po' e non dispiace, diciamo sono abbastanza affidabili. Certo non si può pretendere delle prestazioni eccellenti, ma comunque diciamo vanno bene. Positivo, positivo, sì, confermo perché ti ripeto, non è perché ce l'ho anch'io, però mi trovo abbastanza bene. Io qui ho a fianco a me adesso è spento il 48, il plus, col display digitale, ti dico che mi sta dando delle piccole soddisfazioni. Sono dei piccoli apparati logicamente che non è che si possono ottenere delle grosse prestazioni qua. Quindi niente, io adesso stavo cercando di abbinare un po' questo mic da tavolo. Diciamo è il modello A1908, quindi non so se lo conoscete. E KK, l'unica cosa che hanno quei microfoni, lo sai cos'è Sandro? Che si tirano dietro qualsiasi rumore. Esatto. Qualsiasi spiffero d'acqua, qualsiasi cosa Positivo, positivo. Se non sbaglio mi è sembrato di aver sentito Luca, se non vado errato. E vediamo un pochino se c'è Luca qua sul Venturo. Sì, sì, ero io, Giuseppe, tutto papperato, io sento male a Sandro. Avanti Sandro per Luca. Ciao Luca, buonasera. Buonasera. Lo so, io adesso ho fatto qualche complimento, vedete? Non ti sento male, Sabo, non si capisce niente. Allora io non ti capisco. Non lo so, ripeto, è talmente particolare che... Boh. Io ripeto nel dire, a me qui sta arrivando una cartolina, io lo sento come che sia qui a fianco a me, devo essere sincero. No, qua no, negativo, quello non sono Antonio, ma gli altri, boh, Gianni. Io diciamo che non è che lo sento bruttissimo proprio, però è strana la modulazione, è un pochettino strana, però lo sento, diciamo che non è brutto, va, quello no. Ok, adesso non so se dipende da apparati a apparati in ricezione, perché molti mi dicono che mi sentono bene, chiaro, molti mi sentono gracchiante, tutto sguatterato, tutto cosa, adesso non lo so da che cosa possa ripetere. Io ho appurato che ogni apparato ha la sua ricezione, cioè, è da quello, purtroppo. E da me così Sandro. Ciao Gianni, com'è questa modulazione? Rimane molto, con molti bassi e sembra quasi che vada a strappare. Aspetta un attimo. Ok. Vedi un po' adesso. E adesso un po' ha migliorato, ma poco, non si come al solito, bussa, ti sentivo meglio prima. Sì, mi sentivi meglio con l'altro microfono che è l'MB4 che spinge molto molto molto meglio di questo. Questo è un po' particolare. Magari ha bisogno solo di regolazioni, sicuramente così. Esatto, si tratta soltanto di centrare un po' la regolazione, diciamo, tutto lì. Adesso vediamo un po', provo un po' sul Mighty Gain, aggiustare un po'. Com'è? Mi sembra che ha migliorato. Luca, prova, prova. Ok, vedi un attimino, prova. Ma si è migliorato, vedi? K, è vero. K, ho migliorato tantissimo. Niente, ho soltanto leggermente diminuito il mic gain, tutto lì. Evidentemente il mic gain, diciamo a fondo scala, comprime. Poi si conferma. Cioè che lo sto usando io, perciò non lo so. Adesso va bene, perlomeno, ti ascolto benissimo. Non so, Giuseppe, confermi? Lo senti meglio di prima o lo senti peggio? Va Giuseppe. Fai un passaggio, Sandro. Ok, vedi un po' in questo passaggio, vedi un po'. No, io lo ascolto identico a poco fa. Sicuramente noi che lo ricevevamo un po' strano. Io non è che lo ricevevo brutto, cioè, però era un pochettino strana questa modulazione. Però adesso va bene, che se si confronta prima, diciamo che è quasi perfetta. Ma sai, forse cos'è anche, che se io sono molto aperto verso portatore, se può essere anche quello. Non c'entra nulla, dipende dalla ricezione tra apparato e apparato. E anche io invece se sono aperto pure lo sento male, adesso lo sento meglio, ma prima lo sentivo male. Lo sentivo con molti bassi e andava quasi a strappare. Cupo, quasi cupo. Adesso ho migliorato molto, si tratta tutto, adesso che lo sai, sai, la regolazione, ti lasci quella lì con quel microfono, te la memorizzi. Capo. Sì, no, ripeto, si tratta tutto, diciamo, a parte il timbro di voce. Il timbro di voce, poi diciamo una registrazione, io adesso ho abbassato, diciamo, il mic gain, quindi evidentemente il mic gain che andava a spingere troppo e saturava, tutto lì. Comunque Gianni, adesso mi confermi che va bene? Sì, capo, adesso va bene, se no ti avrei detto il contrario. Va bene, adesso sa, il russo fa capo. E questa modulazione non me la senti, chiara? Sì, chiarissima, riposa, vai. Magari. Cioè va bene, mi interessa in lontananza, perché in vicinanza mi hanno già detto che va bene, ma in lontananza non lo so come va. Quello già. Qualcuno ha detto che c'è la voce da donna, ma è sempre da vedersi. E chi è che ha detto quella cosa del genere? Già lo so io. Che pecchette. Attenzione Sandro, se vai copiando Giuseppe, dammi un passaggio con questa modulazione. Capo Giuseppe, modulazione abbastanza squillante, buona, si sente che c'è un'amplificazione e un po' di camera eco. No, no, no, l'ho ascoltato. Già, Giuseppe, è troppo eco, va solo un po'. Troppo. È troppo, come si dice già, troppo... mi viene la parola. Metti 3-3-4, Giuseppe. Non posso, ho solo quello... ho il fisso. Adesso, guarda, l'ho tolto direttamente, così facciamo la prova. Come il fisso, Giuseppe? Gianni, ho casino, Giuseppe, tu? Sì. Giuseppe, c'è da notare questo, adesso non so se il mio apparato, perché sono in cuffia, che lo sento, diciamo, essendo in cuffia riesci, diciamo, a percepire, ti porta dietro anche una specie di ronzio, come posso dirti, una specie di alternata. Sì, adesso vediamo un pochino, dai, vai, vai, vai. Vedi un pochino adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso va bene, Giuseppe, allontanati quell'apparecchio da tutti gli altri. No, adesso va benissimo. Adesso va benissimo, Giuseppe, dai. Pagava, lo so io come, perché succede, dai. Infatti te l'avevo chiesto l'altro giorno per quello lì, perché sentivo quel ronzio, ma l'avevamo compreso. Poi è troppo vicino agli apparecchi, ed è meglio spostarlo, e ti sta facendo un po' di rientro, dai. Vediamo un po' così, no, ma lo sento sempre. Senti sempre. Come il wattmetro? Allora, il wattmetro delle cose, delle Midland è sul 10. K. Beh, sta andando bene, mi sono positivi. Ma vuol dire che tutto sta facendo bene. Un attimo, Giuseppe, una piccola curiosità, delle volte può influire e non può influire, l'ho valutato qui da me, portare, diciamo, la massa dell'apparato, diciamo, giallo-verde a un conduttore di massa. Potrebbe anche essere, Sandro, potrebbe anche essere una soluzione. Fai una cosa, Giuseppe, metti la mano sull'apparato. Eccomi qua, senta. Però fa lo stesso. Non ti dico dell'altro perché magari è caldo, ti bruci. Ok, dai. Lo so, ci sono tanti fattori, diciamo, da valutare. E poi una piccola tontatina che fa perdere la testa. Va benissimo, signori, dai. Ne approfitto, vi saluto circolarmente a tutta la volta e sentiamo alle prossime. Ma ciao Sas, buonanotte, dai. Ci sentiamo e buona giornata per domani. Avanti Giuseppe. Ciao, buon 144, ci sentiamo alle prossime, buona giornata per domani. Avanti con voi. Buonanotte Sandro, ce la risentiamo alle prossime. Buon 144 e buona giornata per domani. Avanti Luca. Ciao Alessandro. Spicciativo Luca. Giuseppe, sono qua. Gianni, controlla la tua alternata. Basta, allora, non parlare. Prima, vedere. C'è. Miseria, ha alzato il volume, l'ho sentita pure io, non me ne ero mai accorto. Non ne faccio di nulla, Giuseppe. Ma non lo so, domani o già ci sentiamo in verticale e ne discutiamo, perché sicuramente c'è qualcosa che non sta fischiando da lui. Che non sta? Fischiando per il verso giusto lì da lui. Vediamo, dai, ci vediamo. Vabbè, lo uso così, già si sente lo stesso. Con quale apparecchio te lo sta facendo? Con tutti e due. E allora è tu. E ya. Cambiamo lo spezzone, vediamo un po'. Da niente, no. Tu, non c'entra niente, questo qui è da vedere, se c'entra qualche cosa, si può provare, se no bisogna provarne un altro e vedere. perché non me l'aveva mai fatto così forte. Ascolta, cosa ti volevo dire, ma tu non lo sentivi nell'alimentatore? Sembrava l'alimentatore, però poi ascoltandolo bene lui. Boh, ci sia qualche cosa in perdita. Non lo so, anche se lo tengo in mano, vedi. Lo sposto. Oh, è strano, a me non me l'ha mai fatto. Bene, dai. L'alimentazione com'è? A quanti vol sei? Come già? L'alimentatore a quanti vol sei? Sì, quello lì, quello da 12 cose, da 12 ampere. No, il vol è una cosa, gli ampere un'altra. A quanti vol? I vol. È 13, 8, 12, quanto è? Oia, aspetta che mi devo inchinare. Il rotabile è fisso. È fisso. Una cosa che... No, scusate, ma l'altra mano la senti, questo che sta usando adesso? Tutti e due. Tutti e due? E quello che sta usando adesso perché non è automobile alimentato? Ma infatti non è... Ma non è trasformatore. Perché quello che sta usando prima lo alimenta lui, ma questo che sta usando adesso è autoalimentato. Ma non è trasformatore, per qua, capisci a me. Probabilmente è quello che attacca a fianco. Senti il rumore. Staccando? Staccando non ce l'ha più. Aspetta che cambio paracadute. Che strana cosa. Io ho paura che sia sottoalimentato, per qua. No, quello che sto usando adesso non può essere, cioè vabbè, per quel coso non significa niente, non è là. È un problema di massa sicuramente, dal microfono. E ascolta, facciamoli cambiare microfono, ma è il microfono per qua. Usa lo stesso microfono in tutti e due gli apparati, tutti e due glielo fanno. C'è qualche cosa su tutti e due i microfoni? Già succede? No, il rumore lo sente sulle mie anime, capito? E lì, il coso è lì. Secondo me c'è qualche componente che saranno in perdita. Sicuramente sì. Ma mi sembra molto strano. Lo fa da quello lì, vuol dire che c'è l'alimentatore che non sta andando bene. Attenzione, attenzione. Adesso vai bene. No, adesso è... Aspetta, facciamo la prova. Ancora di nuovo. Poi ho cambiato anche lo settore, glielo messo, ce l'avevo più corto. Non ci sono. L'alimentazione, dai, secondo me l'alimentazione. Proviamo con un altro alimentatore, Giuseppe. Da quanto ce l'hai tu, da 10? Non lo so, questo c'è scritto HP12. Quello della ZG. Non li da 10, quindi c'ho questo della come si chiama? Dell'Alfa Elettronica. Alfa Elettronica, scusa, dove c'è la cosa mia voce? C'è questa Alfa Elettronica che 10 ampere te li dà tutti puliti, non si abbassa nulla. Proviamo, perché sperando che sia quello, sperando che non sia lui, perché è proprio da lui questo coso di alternata. Giuseppe? Sì, avanti. Sei attaccato diretto a una presa oppure c'hai una ciabatta? No, diretto che c'è una ciabatta, però sono senza niente, non ha interruttore la ciabatta. Bisogna provare un'altra maniera qua. E provare prima di tutto a alimentare. fatto il CD. Ma te lo passano attaccato? Ma cosa? Te lo passano quando attacchi. E allora? Prova a cambiare di posizione la presa per la cucina. Sì, aspetta un attimo. E magari è difettoso l'entrata, perché a volte lo fa. Dito io c'è una presa per qua che se tu leggi da una parte difetta, se la metti dall'altra la spina va bene. Anche a me ha fatto la stessa cosa. Ti spiego perché, alcune di queste ciabatte hanno diversamente da una presa al muro, hanno le lamelle dentro, quelle lamelle fanno sì che rondano su certi apparati tipo quel coso, strano, perché ad esempio questa alternata l'ho fatta un paio di giorni fa. Ma ora è chissà quanto tempo qua. Io lo so perché l'ho notato, perché ero in cuffia, i ragazzi dicevano che non ne aveva. Ero in cuffia e l'ho notato per quello. In effetti io non lo sento sulla colonnina. No, tutti dicevano, no, non c'ha niente, no, io ho provato a metterti le cuffie e ho detto a Luca, guarda, ma se mi sono cuffie era io, lo sento pure io. Sì, ma io sulla colonnina non lo sento, non si fa, è impercettibile sulla colonnina. Sì, in effetti non è che sia, però con le cuffie lo senti molto meglio. Lo so, con le cuffie senti anche il mio coso, Poi se non lo senti sulla colonnina comunque è diverso. Campana. Io l'ho ascoltato bene, alla fine l'ho sentito anch'io. Poi, naturalmente, sono cose risolvibili, quello di rompi così. È risolvibile se puoi metterci una morsettiera attaccata a ogni apparecchio, per esempio al lineare, alla radio, all'alimentatore, metti una morsettiera e fai andare a massa, tipo se c'hai un termosifone o una cosa così, in ferro, da attaccare una morsettiera e poi sparisce tutto. Perché se è roba di massa, dovrebbe essere anche, se lo usava prima con quell'alimentatore dovrebbe andare anche bene, adesso è quello che dico io. No, alimentatore non c'entra niente. Proviamo domani. Provate. Attenzione. Adesso ho messo direttamente, lui ha attaccato la presa, però non c'è. Tu ascolta a vedere, proprio da lui. Con l'orecchio dipende. Aspetta. Piace e ascolta, vedi. Se ti avvicina troppo se ti faccio l'orecchio, te lo fai usciando. E il trasformatore. Già, già. Ehi, a Giuseppe. È lui, trasformatore. Trasformatore? Ehi, si è appoggiato l'orecchio, cazzo mia casina. Da domani io porto il mio e... porto trasformatore mio, vediamo un pochettino se va bene col mio, vuol dire che chi sa. Ok? Giuse? Sì? Lo apri o dopo lo apri quando hai finito di chiacchierare, lo apri. CRC ne hai? Sì. Se c'è il CRC, hai visto dove sono le lamelle? Sì. Le lamelle del movimento? Sì. C'è proprio un prodotto per mettere l'allenamento. Allora, ma siccome si è asciugato, hai capito? Si è asciugato di quella roba, di quella specie di colla che morbida, quella rotta, se forse il CRC lo ammorbidisce, quella colla gli può fare meno rumore. Ma soffialo prima, Giuseppe, un pochino. Quanto ho mangiato la cioccolata? Soffialo appena per togliere la polvere, se si impasta. O con un pennellino. Sì, il pennellino ce l'ho, però. Passali un pennellino, poi passi il cerice. Perché ti ripeto, questo qui lo reggeva abbastanza bene a lui, no? Però non mi ha mai creato problemi. Cioè, non sai che cos'è? Hai visto che ero un po' senza entrare in radio ed erano fermi. Non vorrei che magari ti abbia fatto male. E può darsi pure. Che la nostalgia, la lontananza dalla frequenza mi ha rovinato i ragazzi qui sotto. abbandonati. È una lunga storia. Mica c'è Mattarello dietro, attento. Cappa. No, mi sono chiuso a chiave. Avanti. È fatto bene, almeno sei tranquillo. Cavolo, almeno posso dare anche le spalle alla porta adesso, prima di arrivare qua che passa a caricarlo una capola. Sovramodulato, se si è passato tu, ma l'ho sentito mollando. Tu sei? E via, via, via. Di quello che ho finito, tipo che uso per la macchina da cucire, ne hai? No, no, Pierpa, di quello no. Sì, sì, va bene Pierpa. Allora bisogna che lo procuri. Ma quello che usano per le macchine da cucire è dentro la boccetta, non è vendono spray di quell'olio. No, no, infatti non è spray, lo mettevi sopra, ho detto, lo mettevi sopra, così lo lasciavi ad assorbire. Poi, dopo 3 o 4 ore, la mettevi ci sopra e se lo assorbiva, capito? Perché quello è olio di parafina. Ecco, ma è olio d'oliva, non gli va bene lo stesso. Negativo, con quello si può insalata e ce la mangiamo. Cappa, poi ci buttava appena l'aceto e riuscì a bindare la mia amata. Vabbè, comunque dai, il CRC dopo, vedrai che ci voglia quello che c'è e dovrebbe fare meno rumore. Sono meno bene che quello rumore. Cappa, dai, continuate voi 2 secondi che mi riattacco la spina com'era. Se uno non ci mette l'orecchio non se ne accorge. Sì, ma a prescindere da quella non so, deve andare diversamente. Allora che se invece viene pulita. Se c'è questo rumore sottofondo bisogna che si può togliere, è meglio togliere. Cappa, troppo è così. È meglio pensarci, no? Meglio togliarlo, sì. Certo, uno non si deve mettere paranoia per una fessina del genere. Ma le male sono fesserie, già si risolvono. Cappa, no, già si risolvono. Non sono state tutti i secondi. Quindi mi metto più giù. La. Metto vai. Cappa, cappa. Stavo prendendo l'altro giorno, l'alimentatore. Raggi BC. Santano vero. Quell'alimentatore. Mi sembra che era da 7 ampere. No, usano i bot. Io più piccolo che c'è 10 ampere, ma c'ho gli strumenti e tutto. Giappa. Io già ce l'ho già, non importa. Io alimentatore in altre. Giappa. E ne aggiungo e basta. Io ne ho tre perché se ti si rompe uno, a parte che c'ho due apparecchi attaccati, con le luci e tutto qua, tutta la maranasci cocco. Cappa cappa. Vabbè. Io ne ho uno solo. Vabbè. Per qua già va bene, poi già c'è sempre quello di scorta. Al limite se proprio è da 3 ampere e mezzo a quello questo qua mi va bene, non mi ha mai dato nulla, è un buon po' la stessa che mi tocco ti non parlate di gate. Ma ecco avanti Giuseppe, vedi un po' l'alternata sì e poi se ci riesci. No, l'ho aperto, ce l'ho qui. E c'è come una spugnetta che separa il trasformatore dalla cosa, dal coperchio. Magari credevo fosse quello che vibrava. No, non è una vibrazione. È proprio una come un ronzio di corrente. Lo stesso ronzio lo fa a me nell'alimentatore. Questa è la mente dove sono? Si è trasformato. Ma tutte quelle ramelle che ci sono una attaccata all'altra. Grazie. Si possono anche stringere, c'è una, ci sono un corso, sarà una chiave da 8. Ma non le toccare perché qui c'è una regolazione particolare degli occhi guai. Ma dammi se vado per i dritti. Quelle linee devi solo spruzzare però quando finisci di modulare, non avanno. Ma non adesso, l'ho aperto giusto per vedere, giusto per vedere com'era, vedere se riuscivo a fulminarmi da solo. No, lascialo aperto, cioè, poi lo stacchi, prima di passare il coso, ripassi un pennettino, prima di andare a letto e rispruzzi lo spray, dovrebbe essere a danno. Comunque molto meno, la sento un po' di meno. Anche io un po' meno la sento, perché non c'è il coperchio. Eia, eia. Dottora come risposta è eia, classico conosciuto. Ho scoperto anche dove c'è il fusibile. Ho visto tante di quelle cose, pure pulito dentro perché c'è un po' di roba, comunque già c'ho il pennello. Il fusibile ce l'ho davanti. Questo è possibile, ce l'ha, come ha fatto il coperchietto, ce l'ha sopra sopra. Questo qua ce l'ha proprio davanti. Sopra il tasto di accensione. Il mio ce l'ha dietro, si svitta, vu? Che nervoso, si svitta, hai detto che l'ha proprio davanti. Infatti ci sono certi che ce l'hanno lì, ma interessante che ce l'abbiano. La moglie che ce l'ha. Vabbè. Perché mi stava parlando con l'alimentatore, quello che c'avevo fermo. Sono andato a riusarlo, non funzionava, cioè si accendevano tutte le luci, però non funzionava, non si accendevano gli apparecchi. Che strano. Preso, smurlato tutto. E cosa c'era? Il filo del polo genitivo che era staccato dalla lamella. Ma cavolo la fava? Cosa dice? Staccato, c'era una saldatura fredda, praticamente era piatta, come si è staccata c'era il segno piatto, preso, lo dirò, sciolta, ho rimesso metallo, quello che c'ho io, bagnato prima nel disossidante, fatto una bella saldatura, giù, a posto. Va a raccontarlo così è facile, se vedi dove era posizionato il posto che dovevo saldare era una baranoia. Ma troppo praticamente risultava sotto fili, dovuto spostare i fili, ho dovuto risaldare due per togliere, per saldare bene, se no li bruciavo. Chiappa. Io vabbè, piano piano che ci si riesce a fare tutto. Ma poi se adesso è andato bene, ricordo sempre una cosa, che la saldatura, se vuoi che ti esca forte, devi comprare la pasta. Che cos'è? La pasta salda di disossidante. Due di bianco che mi stanno chiamando, vengo subito. Io la uso la pasta, ce l'ho. Ce l'hai? No. Ne abbiamo comprato una da Corso, da Ciani, ma buona veramente. Sì, solo che ti deve fiaggare sul fumo che faccio, mamma. Non so, ma se vuoi saldare bene. Io lo so, sempre, ma ci sono anche tanto i fili adesso con la pasta salda dentro, all'interno. No, è sempre meglio usare la clava. Se tu usate, non ho mai saldato senza pasta salda. Già, perché attacca di più. Sì, voglia. La saldatura te la fa fare più bella. Sì, è così. Già, adesso si può saldare anche senza, però con la pasta salda è migliore. Soprattutto, ma quella che abbiamo preso di qualità buona proprio. Non so che cosa hai tu, però per noi è buona. Boh, il barattolo rosso c'è. Barattolo rosso? No, quello abbiamo noi è barattolo giallo e tappe rosso. No, a me è tutto rosso. ho preso la GBC. Ma buona! Ma già canta nel villaggio, tu non hai idea. Dura, Vuole. A voi li vendevano in soldi, la vendevano. Non in barattoli, proprio in barattolini piccoli, tipo quello delle caramelle, di una volta. Quelli del lucido, così ce l'ho io. Ma noi che abbiamo il barattolino A, ce l'ho anche io comunque il barattolino rosso. Così. Noi abbiamo pure quel barattolino più grande. Raga, ma io non l'ho mai vista, ci stava. Ho mai visto, Comunque ce l'ho da un bel di anni anche. Ciao. Guarda, quella che abbiamo preso noi è buona, ma buona davvero. Beh, fai andare bene. Ragazza. Questa mi accorgo della differenza, perché se non mi metto, comincia a fare i capricci, allora li metto la pasta a sale, subito usare. Sì, perché mi dà la giusta cosa. Vabbè. Tutto dura, è più forte il filo, quando è saldato così. Fare di un mese. Beh, Giuseppe, sai perché fine ha fatto? Un attimino adesso. Prendi per il papà. Che ha chiuso. Per quello che si è vero. Mi ha risuonato di sopra. E allora, che ci sono a mezzanotte? Scappa, io mi fa un pochettino e ho chiuso, un stanco. Ma Giuseppe già si può trattenere, se non lavora. Io non mi posso trattenere. Ma capo. Ma è una giornata faccia. Sì, già passa anche qui un altro. Sì. Bravo, non sono passato di tanto. Capo. Premuoversi. Dal tutto. Domani mattina mi alzo presto. Così? Yeah. Alle 6:30. Ti alzi. Ma viene papà a chiamarmi. Ah, non ti dice di torno? No. Perché no? Molte volte me ne sveglio io, alle 5 mi sveglio. Dipende. Molte volte viene lui. Cappaga. Ehi, ma ti metti una sveglia, non ti sveglia. Cappa, la più delle volte viene lui. Per Paolo è... oggi. Cappa. Allora, mi alzo, mi preparo, faccio il caffè. Caffè tu fai, invece anche se le colazioni le faccio io la mattina. Cappa. E comincio a preparare il caffè. Oggi non ce la facevo perché ho dovuto entrare in bagno e l'ha preparato lui. E io poi l'ho messo nelle cose. Beh, io preparo il cappuccino. Caffè. E io, no, il cappuccino me lo preparo al bar. Faccio il caffè così alla veloce, perché poi si parte. Caffè, caffè. Giuseppe non si vede, non si sente, cioè, qua mi dicono di spegnere l'aereo. Vabbè, buonanotte Gianni. Quanto? Ciao Giuseppe, se mi stai ascoltando io sto chiudendo, vai. Buonanotte. Ciao, buonanotte Gianni. Dai, io dico io appena, adesso sto un pochettino all'ascolto, faccio un po' di cose e dico io, ciao. Attenzione. Come Giuse? Eia. Chiuso Gianni. Eia. E dai, chiudiamo anche noi adesso, mi anto. Così adesso vado a sforzarmi quel pochino di CRC. E devo fare quelle cosette, dai. Buonanotte, Giuse. Cappa, buonanotte, Anto. Salutami Paolo e buon trabacco per domani. Ci sentiamo domani, Anto. Ciao. Ciao, buonanotte.